È la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, tipicamente tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20, ma nelle settimane di questo periodo molto molto di meno, non tutti i giorni. Per esempio questa settimana, questo è il primo giorno, pur essendo già giovedì, e ci sarà solo domani, il venerdì. Questa seconda parte, che si è aperta con Seu Jorge e Life on Mars in brasiliano, e poi Beat Beat Whisper con And Suddenly Part Was Shared, appena ascoltata. E vi ricordo l'importanza delle playlist per questa trasmissione, importanza che ha assunto il suo pieno significato per esempio alla chiusura della prima parte, quando vi siete ascoltati quel brano di cui ho tessuto le lodi. Potete ricevere la playlist direttamente in casella di posta se vi iscrivete alla lista nera scrivendo a giulio@radiorockfm.com, oppure le leggete a fine settimana su myspace.com/eclettica. Ed ora il ritorno di Stephen Malkmus, anche in questo caso assieme a The Jigs. Dal suo ultimo album, uscito a fine 2007,

L'enorme lancetta nera è ancora immobile, ma si accinge a compiere il gesto di ogni minuto. Quel sobbalzo elastico metterà in moto tutto un mondo. La faccia dell'orologio si volterà lentamente, piena di disperazione, di disprezzo e di noia, mentre l'uno dopo l'altro cominceranno a sfilare i pilastri di ferro, portandosi via la volta della stazione come impassibili atlanti. La banchina comincerà a scorrere, trascinando in un viaggio verso l'ignoto mozziconi di sigarette, biglietti usati, granelli di luce e sputi. Un carrello scivolerà via, senza muovere le ruote, seguito da un'edicola da cui pendono seducenti copertine di riviste, fotografie di nude bellezze grigioperla. E gente, gente, gente sulla banchina in movimento, che muove i piedi eppure resta immobile, che cammina in avanti eppure indietreggia, come in un sogno straziante pieno di incredibili sforzi, di nausea, di una debolezza dovatta nei polpacci, si precipiterà indietro, quasi ricadendo supina. Questo era l'incipit di Re, Donna, Fante di Vladimir Nabokov. I tried to kill all my fears. future, we don't need horses. We have motorized carriages called automobiles. If everybody's got one of these auto horses, does anybody walk or run anymore? Of course we run, but for recreation, for fun. Run for fun? What the hell kind of fun is that? Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia. Lolita. La punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per battere al terzo contro i denti. Lolita. Era lo, semplicemente. Lo al mattino, ritta, nel suo 1,47 m con un calzino solo. Era Lola in pantaloni, era Dolly a scuola, era Dolores sulla linea tratteggiata dei documenti, ma tra le mie braccia era sempre Lolita. Questo era l'incipit di Lolita di Vladimir Nabokov. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 10, volume numero 4, indice, Friars, The Go Station, Nano, The Mojo Matics, Iron and Wine, Panda Bear, Seu Jorge, Bit Bit Whisper, Stephen Malkmus and the Jigs, Canadians, Electric President. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.